Prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova, prova. Chi prova? All right. Proviamo. Provi te? Vai. Si fa? Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con la serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo, come al solito grazie alla benevolenza del Santissimo Subito Stefano Neri che ci concede questi spazi. Questa sera, Fumino, è un grandissimo onore avere qui con noi un ospite che a Montevarchi conoscono veramente tutti. È proprio così, Julian, buonasera a tutti anche da parte mia. L'ospite di stasera è appunto un'istituzione in città, è un'istituzione all'interno dello stadio Brilliperi, in Curva Sud in maniera particolare, anche se non ricopre ruoli istituzionali. Comunque, bando alle ciance, l'ospite di stasera, grazie di essere con noi, benvenuto a Giovanni Papini. Buonasera, buonasera a tutti. Tra l'altro ci stavamo dimenticando di presentare il nostro regista di stasera, che occasionalmente, per onorare la presenza del nostro Giovanni, è Tuli Kuffenberg. Quindi grazie Tuli per essere qui con noi. E Giovanni, ti faccio la prima domanda. Raccontaci, se ti ricordi, la prima volta in cui hai visto una partita in Montevarchi. Allora, io abitavo, diciamo, a Levanella dal 1976 e sono venuto a Montevarchi agli inizi del 1979 a abitare in via Roma. Quando ero a Levanella non c'avevo particolare passione per questa squadra, perché forse non la conoscevo nemmeno, e conoscevo solo il paese di Montevarchi sporadicamente, perché non è che ci stessi molto. Venendo a abitare a Montevarchi mi sono ritrovato a questo grande calore che c'era intorno a questa squadra, e quindi agli inizi del campionato di C1 del 1979, che avevo 10 anni, sono capitato in Curva Sud a Montevarchi, in quanto c'era dei ragazzetti, diciamo, fra cui c'era degli altri ragazzetti, e facevano un po' gli ultras della curva con il tamburo, facevano qualche fumogeno, e queste, ho visto qualche partita di 79, la prima nel 79, qualche partita del 79 o primi 80, e poi, diciamo, fino all'83 mi sono un po' separato, anche perché la squadra del Montevarchi, dopo la retrocessione dalla C1 dell'80, non era più seguito. E diciamo, con la caduta nei dilettanti e quindi in Serie D, facendo un campionato di vertice, una bella Coppa Italia, poi tra l'altro stravinta dal Montevarchi, è ritornato un grande calore verso questa squadra, forse ancora di più di quanto lo era stato fino ad allora, in quantità anche di presenza allo stadio. Cioè, abbiamo poi negli anni successivi, anche quegli anni lì, abbiamo fatto dei grossi incassi a Montevarchi, non per i tifosi ospiti in massa, ma anche per i molti montevarchini che vi partecipavano. Che poi vorrei puntualizzare una cosa per chi non lo conoscesse, non fosse Montevarchi: Giovanni qui presente non è montevarchino di nascita, quindi è un altro caso di spiccata montevarchinità, visto che noi appunto ricerchiamo la montevarchinità pur non essendo nato a Montevarchi. E infatti Giovanni, come dicevi tu Julian, non è nato a Montevarchi, ma suo padre è di origine montevarchina. E cos'è successo, Giovanni, per cui tu sei nato addirittura in Friuli? Mio babbo, per lavoro, si trovava presso il confine fra Italia, Austria e Slovenia, a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, e in questo paese di Tarvisio ha conosciuto mia madre, che vi lavorava lì come barista in una stagione estiva. Poi si sono fidanzati, si sono sposati, comunque mio padre era in giro per l'Italia per lavoro, e aveva una sistemazione, credo, definitiva alla fine a Salso Maggiore Terme. Ma il mio nonno del Friuli Venezia Giulia stava male, insomma, mio padre e mia madre hanno chiesto trasferimento in Friuli Venezia Giulia per restare accanto a mio nonno. Poi mio nonno è morto e mio padre e mia madre sono rimasti nel Friuli Venezia Giulia, e quindi sono nato io e mio fratello lì. Poi nel 1976 nel Friuli Venezia Giulia, si sa, è venuto un fortissimo terremoto che ha fatto mille morti, migliaia di feriti, ha distrutto molte case, sono franate le montagne, insomma non era una situazione molto carina. E in quanto però noi dovevamo rimanere a abitare nel Friuli Venezia Giulia anche dopo questo grave terremoto di maggio, la casa che avevamo noi era perfettamente agibile e quindi potevamo rimanere anche lì. Però poi a settembre, sebbene non fece morti, fece danni ma non fece morti, in quanto aveva già fatto la prima volta, venne un altro fortissimo terremoto e mia madre e mio padre decisero di venire a abitare in Toscana, in quanto mio padre era toscano di Montevarchi, e siamo venuti a abitare in Toscana. Siamo stati un po' dai miei parenti qui della Toscana un annetto, un altro po' siamo stati in una soluzione di fortuna a Levanella in una casa di campagna, e poi nel 1979 siamo venuti appunto in via Roma a abitare con tutta la famiglia, in cui abitiamo anche ora lì. Quindi io posso anche dire una cosa, che comunque conosco il paese molto bene, perché io ci abito da quando avevo 10 anni in centro paese, no, 49, sono quasi passati 40 anni, abito in via Roma, sicché in qualche senso sono partecipe del paese, anche perché abitare in centro si vede un po' forse le cose diversamente, abitare magari in una periferia. Una delle tue grandi passioni è la musica, e per quanto riguarda la musica nello specifico è il ritmo, vale a dire la batteria. Una cosa che tu hai detto prima e che probabilmente ti ha colpito quando da bambino la prima volta sei andato in curva o le prime volte che andavi allo stadio, era appunto quel tamburo che era lì nella curva, perché qualcuno, i primi ultras di Montevarchi dell'epoca, lo suonavano. Ma a te questa passione ti è nata su quei gradoni, in quella curva, oppure ce l'avevi già? No, assolutamente no. Io in quella curva lì posso dire che c'erano i tamburi e li suonava della gente. E in quegli anni lì, fine anni 70, posso dire li suonava i Caponi. Ivo, che era figlio di un batterista e quindi aveva anche a disposizione i tamburi da portare per la curva. Però io ero troppo piccolo nel 79, andavo solo lì per vedere gli ultras, che comunque mi appassionavano gli ultras all'epoca più della musica. E poi mi hanno appassionato in tutta la mia età giovanile, mi hanno appassionato molto. I primi Super Tifo, queste le foto del Rotesi, di Montevarchi e queste cose, tanta roba direi. Tra l'altro hai frequentato la curva anche nel periodo in cui sono nati i gruppi organizzati, perché le Brigate ad esempio sono dell'84, Giglio allora, è dell'88. Io devo dire una cosa, allora negli anni 70 c'era prima un gruppo Ultras Montevarchi, che poi questo primi Ultras di Montevarchi si sono, in pratica erano ragazzi e hanno lasciato perdere. Quindi arrivati dopo la promozione in giù, hanno molti di loro, chi per la moglie, chi per la famiglia, chi per le cose, ha lasciato un po' perdere. Questa gente facevano gli ultras negli anni 70, hanno lasciato un po' perdere la situazione proprio nella stagione 79-80, e quindi i gruppi non erano molto organizzati, erano... Se prima erano ragazzi, erano proprio ragazzini che facevano un po' di tifo a Montevarchi. Poi dopo, quando era iniziato dall'anno che il Montevarchi si è ritrovato in Serie D, anno 83-84, che poi tra l'altro quell'anno ha vinto il campionato, e in quell'anno lì, visto il Montevarchi andava bene, poi le vicissitudini anche un po' con i Poggi Bonzi, che c'erano stati alla prima giornata in casa a Montevarchi, c'erano stati dei tafferugli, e quindi naturalmente i montevarchini avevano trovato una squadra rivale, una tifoseria rivale, appunto quella dei Poggi Bonzi. All'inizio non c'era particolare cosa sui gruppi, c'erano i vecchi striscioni, mi sembra Boys e Ultras. Allora, nell'anno 83-84 stavamo facendo un campionato di vertice e stavamo anche andando molto bene in Coppa Italia, e quindi la squadra era, il pubblico era tornato in massa a seguire, e qui venne deciso di fare uno striscione che prendesse tutta la curva con la scritta Brigate Rosso-Blu. Questa decisione di fare questo striscione fu presa da Gianni Romei e da Fioravanti, che non mi ricordo il nome di Fioravanti più, però furono loro due che vollero fare questo striscione. Io posso dire che Gianni Romei c'era sicuramente coinvolto nella nascita delle Brigate Rosso-Blu, e questo io lo riconosco, perché io mi ricordo che lui proponeva di fare questo striscione Brigate Rosso-Blu molto simile a quello che veniva esposto, per dire, che ne so, dai milanisti a San Siro coi Teschio, e quindi venne deciso di fare Brigate Rosso-Blu e venne fuori le Brigate Rosso-Blu, e io avevo 14-15 anni all'epoca, però già partecipavo in maniera attiva alla curva, in quanto per i fumogeni, per queste cose qui, fumogeni, bandiere, striscioni, per organizzare un po' di coreografia, anche se uno è un ragazzo, però insomma fa piacere. Poi ripeto, erano le prime fotografie di Supertifo, ognuno, un ragazzo, e vedeva queste belle curve di Serie B, diceva vorrei anche a Montevarchi fosse così, almeno io lo dicevo così, e poi alla fine è successo a Montevarchi, il sogno di avere una curva di Ultras si è avverato. Poi mi avete chiesto dei gruppi organizzati, io ho parlato di Brigate Rosso-Blu, non ho parlato di Ultragiglio. Gli Ultragiglio invece sono nati nel 1988 e lo striscione Ultragiglio venne fuori nell'ultima partita di campionato con la Carrarese in casa a Montevarchi. Con la Carrarese ci fu questa partita e lì venne esposto per la prima volta, attaccato nella parte alta della curva e quindi sopra gli spettatori, Ultragiglio. In origine c'era stato qualcuno che aveva fatto lo stendardino bianco, Nucleo Giglio, Sezione Giglio, Brigate Sezione Giglio, però non c'era un vero Ultragiglio. Non so di preciso chi sono i fondatori veri e propri di nome, perché non potrei sapere, ma loro in teoria sono Nartini, che era uno dei promotori, insieme a questi di Bardigiglio, dei promotori del club Ultragiglio. Nell'88 sono apparsi loro e quindi la curva si è divisa in Ultragiglio e Brigate Rosso-Blu. Negli anni 90, ai tempi di Farolfi, ad esempio l'anno della morte di Farolfi, venivano fatti, per dire, la domenica andavamo molto bene in campionato, venivano fatti due pullman. Uno lo faceva ai Bar di Giglio per gli Ultragigli, uno lo facevano ai Bar Firenze e lo facevano per le Brigate Rosso-Blu. Una volta a Carrara si aggiunse un pullman dell'Anselmi con gente che andava lì ai Bar Anselmi, anche quello non dispiace, dai, Carrara è sempre una bella trasferta, farla in tre pullman invece di due è già qualcosa. Partendo dalle primissime rivalità che ti ricordi, vale a dire quelle con il Poggi Bonzi nell'83-84, però andando avanti nel tempo, poi dopo ci sono stati campionati che hanno visto nello stesso campionato ben più di una squadra o tifoseria rivale, e in una di questi frangenti tu ti sei ritrovato protagonista addirittura della difesa dello striscione. Ci racconti questa storia? Siamo andati ad Arezzo in Coppa Italia, non eravamo moltissimi, credo avessimo fatto siamo andati in treno e poi ci hanno portato dei pullman della stazione allo stadio. Siamo arrivati allo stadio, l'anno prima eravamo andati due pullman a Arezzo, eravamo andati questi due pullman e tra l'altro era arrivata anche una sassata nel nostro gruppo, aveva cappato Pierino Della Penna, insomma, Però eravamo un bel gruppo, due pullman. L'anno dopo siamo andati, eravamo un po' meno, siamo andati in treno, poi trasferiti in pullman allo stadio. Siamo arrivati allo stadio e, come l'anno prima, abbiamo deciso di mettere gli striscioni all'interno della rete del campo, quindi rischiando forse un... siamo entrati a mettere questi striscioni in campo, eravamo in tre persone nel campo e in pratica c'era l'impianto di irrigazione del manto erboso del comunale d'Arezzo che c'aveva un pappagallo e c'aveva un idrante con un tubo. A questo punto, quando ci hanno visto in campo, sono scavalcati più di noi, 6 o 7 arretini, forse anche 8, non mi ricordo molto di preciso, ma da 6 a 8 persone, e sono venuti verso di noi. Quando sono arrivati a noi, noi eravamo naturalmente in disparità numerica, non potevamo più nemmeno che i nostri potessero scavalcare per venire da noi. E questi arretini sono avvicinati lungo la pista di atletica, sono venuti verso di noi, ha preso lo striscione e se l'è messo ai petto, in modo che prima di lasciare lo striscione l'avrebbe difeso fino alla morte. E niente, sono arrivati questi arretini, quindi si è messo a difendere lo striscione, l'altra persona è rimasto lì a aspettarli e io c'avevo in mano l'idrante dell'acqua che serviva per annaffiare e niente, questi arretini sono arrivati lì vicino, io gli buttavo l'acqua e loro mi hanno detto: oh, ci fai una sega con quest'acqua? E io gli dicevo: oh, vieni. Però loro non si sono avvicinati, non so se avevano paura di bagnarsi, boh, che ne so, io potrebbe anche essere avessero paura di bagnarsi, comunque un getto un po' forte. Che poi magari non era nemmeno una giornata fredda, quindi non era primavera, non era la fine dell'estate e quindi bagnarsi poteva far venire il raffreddore, la tosse, che ne so. Ma poteva anche essere una giornata calda, fossero particolarmente sudati e quindi una doccina gli poteva anche far bene, insomma, però che cosa... Ma sai, se tira un po' di vento, sai, basta un soffio, poi torcicollo, insomma, tutte queste cose. E che vuol sapere, insomma, poi l'Arezzo, sì, Arezzo ci tira vento, no, e infatti è fatto bene. E insomma, abbiamo scoperto, siccome il volo dell'Aquila svela i segreti, che quella volta non si sono bagnati e quindi sono tornati tutti a casa tranquilli, senza essere bagnati, senza raffreddore, senza tosse. L'acqua può salvare uno striscione, questo. Un getto d'acqua vi seppellirà, sostanzialmente. No, un getto d'acqua salva lo striscione, salva i tifosi, comunque lo striscione lo poteva salvare... perché comunque non c'era problemi, però loro non ho capito perché non si sono avvicinati, si vede loro in qualche maniera ci temevano, perché se no ci avrebbero aggrediti sicuramente, come hanno fatto coi catanesi. E comunque con l'Arezzo è stata sempre una grande rivalità, te comunque hai percorso da spettatore, da ultras, da tifoso, grandi epoche del tifo Montevarchino, quindi quali altre grandi rivalità oltre all'Arezzo, le principali rivalità? No, io dico le principali rivalità che abbiamo avuto era che noi negli anni 80 comunque tutte le domeniche aspettavamo le tifoserie avversarie, perché o Serie D o Serie C, Serie D primi anni 80 poi Serie C, perché ci piaceva avere dei rivali. Noi in generale eravamo i rivali di tutti, ma si poteva essere anche amici di tutti. Infatti sono venuti nella Serie D negli anni 80, ad esempio sono venuti dei ragazzi di Lamezia Terme, si gioca in Lamezia Terme, loro sono venuti a Montevarchi, hanno fatto amicizia con la gente di Montevarchi, mentre sono venuti, per dire sempre, agli 83 sono venuti da Battipaglia in provincia di Salerno, e lì è successo l'asino fra la curva di Montevarchi e quelle di Battipaglia, e questi non sono... Io faccio per dire amici e non amici, comunque in particolare poi c'era queste rivalità che nella Serie C poi sono venute fuori, è venuta fuori la Carrarese, tutti i derby toscani, quindi è venuta fuori la Carrarese, è venuto fuori il Prato, è venuto fuori il Livorno, è venuto fuori la Lucchese, è venuto fuori la Massese, e quindi sono venute fuori dei derby toscani, è venuto fuori l'Empoli, con cui poi negli anni 90 ci abbiamo addirittura fatto un gemellaggio ufficialmente con la partita dell'Empoli a Montevarchi. Erano anche altri tempi, erano tempi in cui le passioni magari trovavano sfogo in un altro tipo di maniera, erano tempi in cui le cose andavano in una certa direzione. Oggi tutto questo probabilmente non sarebbe accaduto, perché comunque sì, i tempi appunto sono diversi e quindi è proprio un altro modo di fare. Però io ti volevo domandare una cosa, e sarà già domandato, non ricordo esattamente a chi, ma almeno a un altro ultras era venuto qua. La differenza secondo te che c'è nella rivalità tra Montevarchi e San Giovannese e Montevarchi e Arezzo? Perché spesso c'è questa discussione, no? Il nostro vero derby è con Arezzo oppure con San Giovannese? Allora, direi una cosa, per la vicinanza direi che forse sarebbe più opportuno considerare San Giovanni. Comunque, rispetto agli arretini, in teoria... In pratica, anzi, abbiamo molto giocato più negli ultimi 30 anni, abbiamo giocato molto di più con l'Arezzo che con il San Giovanni. Il San Giovanni, essendo nelle categorie inferiori, che magari per le loro categorie eccellenza o Serie D potevano essere delle categorie, avere una bella tifoseria per la categoria, però non erano considerate tanto dai non montevarchini, non erano considerate tanto come tifosi, perché effettivamente non erano quello che si poteva aspettare di essere. Poi però, quando sono venuti dalla Serie C, tipo quell'anno che è successo il fatto che tornarono a piedi, quell'anno lì che erano venuti in Serie C dopo tanti anni in Serie D, allora vennero il primo derby dopo tanti anni, vennero in massa, purtroppo un derby infausto mi sembra per noi. Comunque io ho sempre visto, naturalmente abbiamo giocato più con l'Arezzo che con San Giovanni, e poi io ho visto negli ultimi derby che c'è stato Arezzo e San Giovanni, no, questi di quest'anno, gli ultimi derby della Serie D prima delle nostre sciagure, ho visto che comunque quando c'era il raduno ai bar di Giglio con l'Arezzo c'era 150 persone, con la San Giovannese ce n'era 30. E questo è quello che ho notato io in questi ultimi 10 anni fra Montevarchi e Arezzo. Quando c'era l'Arezzo c'era grande partecipazione, per il San Giovanni c'era meno partecipazione. Quest'anno comunque penso che sia stata sentita molto, si è fatto un bel treno con tanta gente, ci hanno fregato con questa storia del ritardo che si era rotto il treno, perché effettivamente potevano fare andare la partita tranquillamente facendoci arrivare alla nostra ora. Sì, per chi non è di Montevarchi e non sa l'episodio, in occasione del derby tra Montevarchi e San Giovannese di quest'anno, un treno speciale praticamente, o quantomeno un bel numero di montevarchini aspettavano il treno, l'hanno aspettato a lungo proprio perché c'era una presunta rottura di un treno, comunque un guasto, tanto che appunto i montevarchini sono arrivati allo stadio di San Giovanni. Ah, volevo dire anche un'altra cosa in questo senso, che... tutti i montevarchini si sono premuniti anche la mattina stessa di comprarsi il biglietto per il treno, e tutti hanno esibito, quasi tutti, forse qualcuno, però tutti hanno esibito il tagliando di viaggio per andare a San Giovanni. Io, dove si voglia arrivare di mettere delle regole ancora più dure di questo, io penso tutti hanno il biglietto dello stadio, va bene. Tu che sei all'interno dello stadio per l'Iperio ormai da più di 30 anni e hai citato poco fa le sciagure del 2010-2011, la domanda che mi viene di farti è: come hai vissuto tu quella fase che ha portato a Montevarchi una serie di faccendieri e affaristi strani per arrivare al culmine con la famosissima ballerina? E poi appunto il fallimento e la rinascita con la società in mano ad un gruppo di montevarchini finalmente dopo tanto tempo. Cosa ne pensi? Allora, devo dire che Montevarchi, la sciagura di Montevarchi è stata per me una persona in particolare, e non c'entrava niente nel fallimento alla fine, però è stato lui che ha dato in mano la società a questa gente e poi ci ha portato il fallimento, Giuliano Sili. Giuliano Siri poi ha messo questa società, l'ha messa in mano, forse è stata comprata da qualcuno, anche questa società, della gente di basso profilo morale, credo. Diciamo, ha messo la società in mano a della gente, e questa gente ha portato alla rovina del Monte Varchi, perché non ci avevano soldi. Con i soldi che sono stati spesi se ne sono messi magari in tasca, perché succede anche questo, che uno non ha i soldi e con il nome di una società ci campa, che ne so, io fa un acquisto, una cena, qualsiasi cosa, e lo scrivo a nome della società, comunque faccio chiodo e poi questo chiodo non lo pago più. E comunque poi in Monte Varchi a un certo punto è fallito in quel famoso campionato di eccellenza. Ricordo, sono stato anche a Chiusi a vedere la partita, mi sembra due o tre partite prima del fallimento, qualcosa del genere. Dico anche che questi signori avevano in mano la società, mi devono dire perché loro non hanno fatto fallire la squadra prima dell'inizio del campionato, invece di farla a campionato iniziato. In quanto se fallivamo prima del campionato andavamo in categorie più alte e non venivamo radiati da tutti gli album, perché eravamo proprio radiati, siamo ripartiti con il nome Audax Montevarchi, che era una società di Montevarchi in seconda categoria, e siamo ripartiti con il nome di Audax perché con Montevarchi è stato radiato. Se loro avessero fallito a giugno, a luglio, questa situazione, potevamo scendere in prima categoria e rimanere in Montevarchi senza il fallimento, cioè con il fallimento ma rimanere in Montevarchi, scendere di due categorie, quindi eccellenza e promozione, ritrovarsi in prima categoria. Già siamo ripartiti dalla seconda, forse sarà un gradino più avanti quest'anno se eravamo ripartiti da quando la società doveva fallire, molto probabilmente. Tanto io non sono indovino, non sono nemmeno un avvocato, non posso sapere queste cose, ma sicuramente c'erano degli interessi di tipo economico, di soldi sotto, e hanno fatto fallire il Montevarchi dopo per portare avanti i loro progetti di basso profilo morale, appunto. No, volevo aggiungere un'altra cosa sul fatto del fallimento. Quando il Montevarchi è fallito ha riniziato il nome di Audax, è venuto Riganò, ma noi abbiamo sempre, anche in seconda categoria in su, siamo sempre andati anche abbastanza in massa a sostenere la squadra in qualsiasi categoria. Ci siamo arrangiati a divertirci nei paesini, prima a Pergine e qui nei dintorni, poi sempre più lontano, e poi quest'anno ci troviamo in Serie D, e quindi è stato anche delle soddisfazioni per le promozioni. Mi dispiace i nostri risultati in Coppa Italia, perché anche l'anno scorso poteva essere nostra. E comunque in 30 anni di onorata frequentazione di vari campi e vari stadi e tante trasferte, avrai appunto visto tantissimi stadi e sarai andato in tantissime città. Qual è lo stadio o gli stadi che ti hanno colpito di più? Non lo so, se mi dici degli stadi che ho visto con i Montevarchi, diciamo Mannuzzi. L'ho visto quest'anno, ma l'ho visto anche nella trasferta di fine anni 90, che facemmo due pullman con il Cesena. E mi ricordo Cesenati erano una curva intera, noi eravamo due pullman più un po' di gente urlato, facemmo anche una bella serie di ritmi tribali quel giorno, ci facevamo sentire anche se loro erano 2500. E invece qual è la partita del Montevarchi che più ti ha emozionato, che più ti ricordi? La più emozionante che mi possa ricordare è a Empoli o la Massese, perché fu ancora più bello di Lugo di Romagna. Cioè a Lugo di Romagna eravamo molti di più, con la Massese eravamo meno, ma eravamo la curva degli ospiti dell'allora Castellani e un quarto di gradinata, che allora era a tubi innocenti, non era in muratura e doppia come lo è oggi, eppure coperta lo è oggi a Empoli, erano tubi innocenti. Quindi sarà calcolato che forse la curva ospiti poteva tenere 1200 persone in piedi, e un quarto di gradinata poteva tenerne un altri 500, cioè 2000 montevarchini, forse 2500. Massesi erano molti più di noi, erano tutto lo stadio, tutta la tribuna. Comunque in quanto a tifo ultras, diciamo, e noi eravamo stipati quindi nella curva, nella semicurva degli ospiti, i massesi ultras erano sistemati nei tre curvini dove ci vanno gli ospiti oggi nelle partite dell'Empoli, perché in quanto gli empolesi sono in gradinata, quindi settore ospiti di oggi dello stadio Castellani. Loro erano questi tre curvini, erano piani, noi eravamo però un bel gruppo uniti, tutti in una curva a livello di quantità di persone delle città. I massesi erano molti più di noi, però a livello di tifo, di ultras, furono mangiati, cioè non c'era paragone. Noi siamo stati caldi, si è sempre cantato della partita, si è fatto di tutto. Comunque poi ci fu un tifo molto valoroso per le bandiere e molto canto. E massesi proprio furono un po' sterili come ultras. E poi alla fine vincemmo noi e quindi fu una grande festa. Che noi prendemmo un treno speciale da Montevarchi fino a Empoli e quindi c'erano tutti questi ragazzi, brigate, un tragiglio. E un'altra domanda, visto che noi qui diciamo di provare a indagare la montevarchinità attraverso il Montevarchi, ma guardare anche alla città. Ora te hai vissuto... Ah, in quanto un tragiglio era venuto fuori la domenica prima con la Rarese, quindi era a Empoli, era la seconda volta che veniva esposto lo striscione tra. E siccome Giovanni, noi qui attraverso questa trasmissione ci proponiamo di indagare la montevarchinità partendo dal Montevarchi, guardando allo stadio, alla curva, ma anche poi in conseguenza dando un occhio alle evoluzioni che ha avuto anche la città negli ultimi 30-40 anni. Ora te hai vissuto 30 anni in centro storico, quindi hai visto le evoluzioni della squadra, le evoluzioni delle curve, ma quanto è cambiata 40, Montevarchi? No, 30, 40 anni ho vissuto. Perfetto. In centro quindi storico. Quindi 40 anni in centro storico, quanto è cambiato il centro storico? Quanto è cambiata 39 Montevarchi? Per l'esattezza. Io dico è cambiato molto. Innanzitutto una volta non c'era tanta distribuzione di massa, quindi non c'erano tanti supermercati. C'era una Coop più grande a San Giovanni, poi c'era a Montevarchi, c'era la Coppina, il Mac Market, ma era molto molto diffuso la bottega di alimentari, la macelleria, per tutte queste cose qui c'era, non c'era grande distribuzione, quindi c'erano molti negozi nel centro di Montevarchi. E appena sono arrivato mi ricordo che arrivava l'autobus, la sita arrivava da Levano e portava le operaie della Ferange verso le 5, un quarto, sì, e fermava in via Roma, sì, che tutte le sere arrivava l'autobus con l'operaia della Ferange, per esempio. Ad esempio il marciapiede di via Roma erano più stretto, il pavimento era di porfido, si poteva parcheggiare giorno e notte fuori, che degli orari in cui veniva dedicato il traffico pedonale. Comunque via Roma chiudeva la sera dopo il pullman della Ferange e riapriva dopo le 8 la sera. I marciapiedi erano più stretti, entravano due file di auto che potevano parcheggiare al di fuori di quelle ore in cui c'era il passeggio e quindi veniva chiusa il traffico, e ci potevano parcheggiare due file di macchine e ci passavano in mezzo sia furgoni sia che auto, quindi era un po' più larga che adesso. E poi ho visto Montevarchi anche cambiare architettonicamente, quindi citavo il porfido prima. Poi io, quando ero piccolo, io, che magari anni 80 delle volte andavo allo stadio a Montevarchi, per dire, scavalcavo il cancello della gradinata, e quando scavalcavo il cancello della gradinata ero un bambinetto, un ragazzetto, scavalcavo il cancello della gradinata, arrivavo dal campo, perché dietro lo stadio di Montevarchi, dove c'è i parcheggi, ora c'erano i campi. Poi Montevarchi si è ingrandita, capannoni, strade diverse, è cambiata molto. Socialmente l'ho vista cambiare, poi c'è stato il fenomeno dell'immigrazione, di queste cose qui, che è iniziato dagli anni 90, diciamo primi anni 90, quindi ho visto anche cambiare le cose nel paese. Ad esempio una volta via Roma c'era sempre un sacco di gente, la sera c'era la tradizione di andare, a me non mi piaceva molto come cosa, non la facevo mai, però diciamo c'era la tradizione, tutti i ragazzi, le ragazze, i ragazzetti, i ragazzini, 16, 17, 20 anni, 21, andessero in via Roma a fare le passeggiate la sera, a fare anche qualcuno, a fare un po' di shopping, a vedere il ragazzo che gli piaceva, a vedere la ragazza che gli piaceva. piaceva stare dietro a quella, insomma, diciamo era abbastanza movimentata a Montevarchi, mentre adesso è cambiato tutto. Diciamo anche via Roma è un po' mortuorio, diciamo, non è che c'è una grande, un grande transito di persone, se non in eventi particolari come le feste, tipo festa a Montevarchi, Notte Bianca. Quindi è passata anche questa tradizione di andare a fare le vasche in via Roma. Era una cosa, era molto radicata. Poi c'erano anche delle manifestazioni, per dire, più, un po' più cruente, per dire, che ne so, quando, per dire, c'era l'ultimo carnevale, fino agli anni Ottanta andava di moda andare a fare la sfarinata, e poi dopo è andata a finire anche questa tradizione della sfarinata. Comunque non era vista di buon occhio, perché veniva sprecata tanta farina per niente. Diciamo che Montevarchi, come tante altre cittadine italiane, alla fine è stata vittima dei tempi da questo punto di vista, perché come ci dicevano anche altri ospiti intervenuti prima di Giovanni, ad esempio sono spariti i ragazzini che giocano a calcio per la strada o nelle piazze, sono spariti anche questa è la verità, perché fino alla fine, fino agli anni 90, comunque tutti i ragazzini, i ragazzi anche un po' più grandi erano alla Vasca, Piazza della Repubblica, erano in questi posti qui a giocare a pallone. Io ci ho passato tanti anni, sin da bambino, andare alla Vasca a giocare a pallone. C'era chi non giocava alla Vasca, c'era in Piazza della Repubblica, poi anni dopo ci giocavano gente che aveva già 20 anni, facevano gruppo a Piazza della Repubblica, magari giocavano a pallone a Piazza della Repubblica. Ora non lo so, forse non esistono più queste cose, forse esiste più la voglia anche di un bambino di avere un telefonino, un computer, piuttosto che avere una palla. Cambiata Montevarchi, come abbiamo detto, rispetto ai tempi che passano, ma il tifo a Montevarchi, secondo te, è cambiato, e se sì, come è cambiato? Allora, diciamo che molta gente che c'era dalla metà degli anni 80 in poi, tanta di questa gente ancora rimane nella curva di Montevarchi e viene nella curva di Montevarchi. C'è qualcuno magari solo quando vinciamo il campionato, solo per i derby, però insomma diciamo che viene molta gente vecchia viene ancora a vedere il Montevarchi, quindi non è che si tratta solo di ragazzi, ma si tratta anche di gente grande che può avere 40 o 50 anni, in cui, che seguono il Montevarchi, di questa gente più grande come me, tra l'altro ce n'è ancora tanta. E poi ci sono questi gruppi di ragazzi giovani, qualcuno ogni tanto si associa, qualcuno poi si stacca, il gruppo prima venivano 10, magari si divide, però in compenso se ne arriva di gente nuova. E poi si torna sempre al discorso del derby o della partita o dei big match, che uno allora partecipa in ogni caso, magari in queste partite meno importanti, però diciamo a Montevarchi, cioè il tifo da quando è venuto un curva sud, quando c'è le grandi occasioni, non è cambiato di nuovo. Era bello negli anni 80, dall'85 in poi, era bello dall'85 in poi, è bello uguale anche adesso come era allora, perché quella curva, quando è piena, le coreografie, le bandiere, viene sempre bene. Ad esempio ci sono stati, per dire, c'è stato un derby di C1 con Siena, abbiamo tappezzato, abbiamo messo due striscioni grandi sulla rete esterna, quindi Brigate Rosso Blu e Ultragiglio, e abbiamo tappezzato, e ora non saprei dove trovare le fotografie, ma era bellissimo, quella domenica lì, anche le riprese televisive molto belle, avevamo tappezzato all'inglese tutta standardi la curva, la balconata della curva, sicché veniva molto bello, perché c'era questo fatto di avere tantissimi stendardi che andavano nell'arco di tutta la curva, quindi il colpo d'occhio era bello. Ricordo che comunque queste partite, Siena, Livorno, Carrarese, la curva comunque era sempre piena, diciamo la città ha sempre partecipato molto forte a queste partite, a questi big match, diciamo, è stato fatto un tifo davvero anche, dico, superiore alla Serie C e anche paragonabile ai tifi che fanno nelle città del sud, ecco, diciamo, perché come sapete magari anche in Serie D da noi nell'Emilia Romagna, anche in Toscana, le squadre sono poco seguite, non sono seguite come il sud, diciamo. Montevarchi, avendo 25.000 abitanti, ha un bel serbatoio di gente che segue il Montevarchi, anche perché, come dicono tanti, sapete, è un patrimonio della città il Montevarchi Calcio, dai, diciamo la verità, che unisce, separa, e che la domenica delle volte, andando a vedere il Montevarchi, tanta gente magari la domenica che non fa, andiamo a vedere il Montevarchi, o magari oggi come oggi facciamo un pullman, ci mettiamo due, ci mettiamo tutti d'accordo, andiamo a fare una bella trasferta, visto che da quest'anno le distanze ci permettono anche di fare delle trasferte un po' più lunghe. Siamo arrivati fino a Fiorenzuola e anche a quell'altro posto, quasi a Piacenza, se che volevo dire. Naturalmente le trasferte lunghe in queste categorie, se uno volesse andare a giocare a Lamezia Terme, prima citavo Lamezia Terme, che questa gente della Lamezia Terme era venuta nell'83-84 a Montevarchi, aveva fatto amicizia con gente di paese, magari per giocare una squadra come Lamezia Terme, l'unico obiettivo che si può avere in questa categoria è quello di andare avanti in Coppa Italia. È l'unico modo, per anche in eccellenza, andando avanti in Coppa Italia, uno aveva la possibilità di andare a giocare le sfide anche molto fuori dalla Toscana, poteva anche capitare Toscana e Sicilia. Quindi per fare delle trasferte davvero lunghe ci bisogna andare avanti in Coppa Italia. Comunque già queste che ci sono fanno passare dei bei pomeriggi, insomma, vai a Piacenza, 3 ore di pullman, torni e tu hai passato la giornata. Augurandoci che prossimamente il Montevarchi riesca a portare i suoi tifosi anche molto più lontano rispetto alle trasferte di campionato, c'è da appunto considerare il fatto che Montevarchi ha in percentuale in effetti un numero di tifosi molto alto rispetto al numero degli abitanti. Esatto, ed è proprio con questo che vorrei concludere la puntata, facendoti un'ultima domanda. No, ma io devo dire una cosa, in quanto però Montevarchi, rispetto a San Giovanni che non ha avuto satelliti, il paese di Montevarchi ha avuto dei paesi, della gente, dei giovani, dei paesi vicino a Montevarchi che ruotavano intorno anche ai Montevarchi, ad esempio Cavriglia, Tenanova, Loro Ciuffenna, questi erano, sono dei paesi che sono legati a Montevarchi, e quindi cioè, c'è stato anche tanti ternanovesi, tanti di Cavriglia che hanno seguito in Montevarchi nel corso degli anni. Concludiamo, ti faccio una domanda proprio personale: cosa è significato per te essere parte di questa curva, essere parte del movimento Ultras Montevarchino in tutti questi anni, proprio da un punto di vista emozionale? Ma io, diciamo, per un certo periodo ho abbandonato la cosa, ma io dico fra gli anni 91 e 95, un 3 o 4 anni, ho fatto un paio di trasferte sole. Una volta addirittura, era un periodo che non stavo seguendo in Montevarchi da un paio d'anni, arrivo alla stazione a Montevarchi a comprarmi le sigarette, la mattina non c'era l'audio, c'era un altro paio. E insomma, arrivo a comprare le sigarette lì la mattina, arrivano questi ragazzi, tra cui fratello di Pispolo, che è morto anche lui, Andrea Nocentini, Pucci, mi hanno detto: andiamo, si va a Prato, vieni anche te. E allora io gli ho detto: va bene, verrò anch'io. Ho preso e sono andato a Prato, ok. E in questo periodo non ho seguito il Montevarchi, poi sono ritornato dal Lugo di Romagna fino adesso. E sui racconti dei sogni di Giovanni di quando era un bambino e sui racconti del vissuto di Giovanni a tutto tondo, io ti ringrazio per aver partecipato stasera alla nostra trasmissione Alla ricerca della montevarchinità, e credo che sia stata veramente una bellissima iniezione di montevarchinità quella che stasera abbiamo ricevuto. Ti ringrazio Giovanni, ringrazio come sempre il nostro ospite, vale a dire Stefano Neri, che ci concede gli spazi all'interno della Galleria San Lorenzo, dove appunto registriamo. Ringrazio il mio compagno di volo alla ricerca della Montevarchinità, Julian Carax. Grazie a tutti per l'ascolto, io ringrazio Giovanni, grazie per essere venuto, e ringrazio anche il nostro regista, che Kuffenberg. Esatto, avevo un secondo, insomma, mi era passato in mente, ma non volevo passare male. Perfetto, ringrazio Kuffenberg. Giovanni, grazie mille per la tua partecipazione. Io vi ringrazio, vi ho spiegato un po' di cose, vi ho spiegato dei Montevarchi, vi ho spiegato di paese, come ho vissuto io un po' la cosa. Devo dire comunque che la curva di Montevarchi dall'84 a oggi non è cambiata, però devo ricordare, ho visto delle fotografie degli anni 70 in gradinata, era molto seguito anche negli anni 70, se no poi negli anni 80 i giovani e i ragazzi non avrebbero avuto tutta questa tradizione verso il Montevarchi, vuol dire qualcuno più vecchio l'ha radiata. Poi alla fine, quando giochi a categorie, giochi con squadre forti, in dei belli stadi, fai delle belle trasferte lunghe, a quel punto lì succede, diventa un modo di passare anche la domenica, dai. Grazie ancora Giovanni, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Vi diamo appuntamento con la prossima puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'aquila. Grazie. Poi è sempre un pezzo di ottone in mano lungo un metro. Cioè, potrebbe essere rischioso, perché con un getto d'acqua nel muso se non ci vede più. Finalmente è stato detto, io se non fa mai sì, io non mi volevo vedere. Bravo, vai, bravo Gio. Non saprei, gente un po' in trallazzona, per dire, c'erano pure le battute all'epoca, ad esempio una domenica eravamo allo stadio e c'era la pista tutta imbiancata, e qualcuno ha detto che c'erano stati i romani con il camion di droga la notte. Ma la metti e se no. Meno male, ora questi tre li portano a processo, speriamo gli diano stronzi almeno, no? Addirittura una persona tirò un fumogeno, una torcia marina nel materassone del salto, con l'asta il materasso prese fuoco. Mi sono bagnato con l'acqua di Arezzo. Un grande entusiasmo, perché aveva una squadra come Montevarchi che lotta per la Serie B, è una bella cosa, perché è una bella soddisfazione, è una bella soddisfazione anche lottare per la prima categoria, e noi si sa queste cose. Infatti mi ricordo di un derby di San Giovanni, sono capitato in tribuna allo stadio del Montevarchi, non c'erano né montevarchini né sangiovannesi, ecco come interessava nel 1980, magari l'anno prima si sarebbero ammazzati, l'anno dopo, due anni dopo non andavano nemmeno a vedere i derby. Mi sono impegnato, avevo fatto degli striscioni, ma mi hanno insegnato a fare fumogeni e salnitri, ma quelli li sapevo già fare a 11-12 anni. Ad esempio una volta c'è stata una partita di Under 16 fra l'Italia e la Jugoslavia allo stadio a Montevarchi. A questa partita di Under 16 nella curva degli ospiti, quindi in curva nord. Arrivavamo noi di Montevarchi tipo 286-85, arrivavamo circa noi di Montevarchi con 300 persone, arrivavamo queste 300 persone di Montevarchi con il tamburo di Ipo sempre, perché il tamburo era il suo, ma non mi ricordo se era Ipo a suonare, può darsi, non me lo ricordo, mi ricordo c'era il tamburo, non mi ricordo, mi sembra non si sapeva nemmeno lo striscione di Montevarchi, però c'era tante persone in curva nord a fare il tifo per l'Italia, questa sfida di Under 16 o la Jugoslavia. Anche questo dimostra che comunque il paese di Montevarchi, anche in una partita che poi non può essere significativa, però è sempre un campionato europeo di Under 16, partecipa in massa per fare il tifo per l'Italia, mi sembra ottima la cosa. No, io però lui l'ha anche detto un'istituzione, ma l'istituzione del sindaco, il sindaco della Valle della Luna. Com'è che allo stadio si canta la Valle della Luna? Com'è venuta fuori questa cosa della Valle della Luna? La Valle della Luna è una valle in Sardegna, è famosa perché ci stazionano degli hippie, penso qualcuno tutto l'anno, no? Qualcuno ci staziona tutto l'anno, altri vanno l'estate in ferie, ma non solo hippie, anche punk, un po' gente un po' alternativa che gli piace spendere fuoco e stare bene anche alla natura. E quindi sono andato a questa Valle della Luna con degli amici qui del Valdarno, naturalmente il sacco a pelo, e c'era delle persone di Firenze che occupavano le case a Firenze, quindi degli squatter, diciamo, che erano in ferie anche loro lì a Valle della Luna. C'era uno di questo gruppo di Firenze che aveva inventato questa canzone lì a Valle della Luna, nella Valle della Luna, Maccalena, Maccalena. Ecco, questa canzone famosa che canto, che cantiamo anche allo stadio a Montevarchi. Ma Tulli Huffenberg, chi è Tulli? Allora, grazie all'idea avuta dal nostro regista per trovare il nome a un regista, Tulli Huffenberg non è proprio un regista. Tulli Huffenberg è un beatnik americano che alla fine degli anni 60, insieme a un poeta newyorkese, Eda Sanders, formò un gruppo in cui hanno militato varia gente, vari musicisti, vari strumentisti, un gruppo chiamato Fugs. Anche perché i beatnik generalmente ragazzi giovani erano hippie e quelli più vecchi erano beat. Papini sindaco, la la la la, papini sindaco, la la la la la, la papini sindaco, la la la la. Discorso, discorso. Seria la polizia fa discorso.